si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, l'appuntamento sabato a mezzogiorno, ma anche la domenica alla stessa ora, con insomma le nostre buone notizie, le nuove tendenze, tutto quello che ci salverà, almeno speriamo. 800 24 00 24, potete chiamare in diretta come ogni sabato per raccontarci le vostre buone notizie, per commentare quelle che sentite, insomma diciamo anche su Facebook si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24, seguiteci in tutti i modi. Cominciamo subito con qualche notizia della settimana. Prima di tutto, a Roma, in attesa che per la questione dei rifiuti Roma faccia come Reggio Emilia, che ha fatto come San Francisco, cioè raccolta differenziata spinta via all'inceneritore e quindi rifiuti zero, ecco, in attesa che questo succeda anche a Roma, siamo lontani anni luce, è un po' di solidarietà, perché l'Abruzzo e la Toscana si faranno carico, c'è stato un accordo in settimana, dei rifiuti in più che vengono fuori dal Lazio e da Roma. Insomma, un po' di solidarietà fa bene. Prosegue la nostra campagna, non dico uno slot, ma insomma per una sana regolamentazione e limitazione delle slot machine. Meno slot per tutti, staremo sicuramente meglio. Allora, la notizia è questa qua: c'è stata un blitz della Guardia di Finanza in 70 città, sono state messe al setaccio 78 negozi, esercizi commerciali, perché oltre al danno alla beffa, cioè c'erano delle slot machine taroccate, per cui tu giocavi e non vincevi praticamente mai, ed è una follia. Quindi insomma, questa è una buona notizia, e poi speriamo di darvene delle altre, insomma, in corso d'opera su questo danni terrificanti che fanno le slot machine. Tema di scommesse: se volete scommettere su chi sarà il prossimo capo dello Stato, dovete dar retta ai bookmaker inglesi, visto che insomma, vogliamo entrare anche noi nel dibattito, però concretamente, come si conviene a questo programma, chi ha più concrete possibilità di farcela? Secondo i bookmaker inglesi, Romano Prodi, che è quotato 1,7, Marini 4 e Mabonino 5, e poi ce ne sono altri: Gianni Letta a 6, Paola Severino 35, c'era anche Bersani a qualche parte, ma forse è uscito fuori quota, è talmente poco probabile. Va bene, queste erano un po' di notizie per iniziare. Avete visto che a Napoli, per la zona pedonale, cosa è successo? Che sarabanda, che polverone, che sconquasso, che casino, insomma, per dirla. Per questa zona pedonale si è scatenata una vera e propria guerriglia. Ora, sicuramente a Napoli ci sono delle cause specifiche della napoletanità della città, insomma, no? Però perché tutte le volte che si va a toccare l'equilibrio cittadino succede il finimondo, e non solo qua? Allora noi, visto che vogliamo come sempre metterci una pezza, andremo in un'altra città dove la zona pedonale la stanno facendo, insomma, tranquillamente, in serenità, senza tanta confusione. Però voi da Napoli intanto chiamateci 800 24 00 24 per raccontarci perché tutto questo casino. E se quindi deve essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di passeggiata e poche case sulla collina. E deve esserci acqua che piove, ci deve essere acqua che piove, per il fiume che porta al mare in fondo a questa vallata. E da qui non si vede granché, ma deve essere strada. Oh, la strada che stanno pedonalizzando, felicemente, in questa città, la città è Bari, la strada è via Argiro, noi ce ne siamo già occupati, però insomma ci piaceva fare un raffronto tra quello che è successo a Napoli e quello che invece sta succedendo a Bari. Abbiamo convocato il nostro Achille Cippone. Buongiorno Achille. Buongiorno a lei. Titolare di un negozio nella via di abbigliamento, nella via in questione, uno insomma dei promotori un po' anche di questo, comitati tra cittadini e commercianti, c'è stata una lunga trattativa, poi alla fine qualche giorno fa, se ho capito bene, questa pedonalizzazione è stata approvata, insomma, in via definitiva. Achille, è così? Beh, è già quasi un anno da quando è stata approvata definitivamente la pedonalizzazione della strada. La battaglia è lunga soprattutto per l'arredamento della strada, per farla passare da una strada chiusa al traffico ad una strada pedonale a tutti gli effetti. semplicemente questo è il problema ancora. Però è un problema che stiamo affrontando in ragione di una crisi comunque esistente e pressante dei consumi, ma abbiamo comunque restituito una strada alla città. Però la cosa interessante è che la crisi c'è da tutte le parti. Altrove, per esempio a Napoli, la paura della crisi, no? Ha spinto i commercianti a chiudersi, credo, di fronte a questa, almeno per come è stata realizzata lì la pedonalizzazione. Invece voi l'avete vista come una opportunità, perché l'altra volta che ci eravamo sentiti, Achille, ci dicevi che insomma, il commercio ne ha beneficiato di questa pedonalizzazione. I turisti apprezzano, la gente va a spasso, in bicicletta, a piedi, e le cose girano un pochino. Ma certo, certo, questo sì. Il problema è che oggi, per quello che sta accadendo, è un po' difficile cambiare strutturalmente la città. Altre situazioni, come quella storicamente già avviata, perché ormai è una situazione, le ripeto, che abbiamo avviato da un anno e mezzo, per cui siamo in continua evoluzione, e cercheremo anche con un'altra organizzazione, che poi se avrà piacere di ascoltare le dirò anche, di fare attrazione, di cercare di organizzare eventi, di riportare le persone nel centro cittadino. Forse mi sento un attimo di condividere le problematiche che ci sono state su Napoli. Ma perché, Achille, secondo te invece c'è stato questa reazione, questo sconforto a Napoli? Perché in questo momento cambiare qualunque cosa fa paura, farebbe paura ritornare ad un'apertura al traffico su Via Argiro, farebbe paura chiudere un'altra strada al traffico su Bari, dove comunque già siamo a due strade chiuse completamente al traffico. Cioè, proprio il cambiamento dici che può generare questo, però basta guardare fuori dal tunnel e vedere che cosa c'è, se c'è qualcosa di positivo, perché chiaramente passeggiare in mezzo alle piante di fiori e alle biciclette è più piacevole che non stare in mezzo alle automobili, basta guardare quello per fare come avete fatto voi. Cioè dire vai. Lei ha ragione, però purtroppo il problema è riuscire a convincere l'utenza, per cui cambiare quelle che sono le abitudini, il fatto di arrivare comunque in zone limitrofe, riuscire a posteggiare la macchina, fare poi due passi a piedi, molte volte anche nelle città del sud c'è un malvezzo comune che è quello della doppia fila che viene utilizzata e che si ritiene possa essere commercialmente un elemento propulsivo, è un po' difficile riuscire a snaturare quella che è la vera essenza del cittadino, ecco. Poi dopo invece, in realtà, quando viene chiusa al traffico una strada, ne beneficiano un po' tutti, ne beneficiano i è questo il punto, no? Il punto d'arrivo, esatto. Però è un percorso abbastanza lungo, mi creda, cioè è più di un anno che lavoriamo e ancora oggi abbiamo comunque molte volte delle difficoltà che vengono dibattute su gruppi che vengono spontaneamente creati su internet, perché magari c'è anche la pagina Facebook, chi fosse interessato a seguire il dibattito tutto barese via Argiro. Vabbè, insomma, state discutendo, state trattando, però state anche dimostrando che tutto questo si può fare in serenità con benefici per tutti. Buon lavoro, grazie per essere stati con noi di nuovo. Via Argiro era Achille Cippone, la nostra sentinella da quelle parti su questa questione qua. Buona giornata, Achille, grazie. A lei, buon lavoro. Allora, ci fermiamo per il traffico, manco a farla apposta, torniamo tra pochissimo e aspettiamo le vostre telefonate, amici di Napoli, 800 24 00 24, anche quelli di Bari se vogliono, per raccontarci voi come la vivete questa questione della zona pedonale. Upside to a downward spiral, my love for you went viral and I loved you every mile. Meno auto anche a Trento, avete sentito insomma la storia di Bari da cui siamo partiti, via Argiro. Meno auto anche a Trento come? Con il car sharing, però non quello per le persone private, per le auto di servizio della provincia di Trento. E fatto sta che in pochi mesi sono stati risparmiati già un sacco di bei soldini. Allora, noi abbiamo convocato Alberto Packer, presidente della provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto facciamo i nostri complimenti, perché con questa soluzione, insomma, abbiamo letto gli articoli della cronaca locale, avete risparmiato oltre un po' di CO2 forse, ma non è tanto questo, qui proprio anche una questione economica, avete risparmiato bei soldini. Sì, sì, guardi, con questo intervento abbiamo risparmiato in un anno oltre 300.000 euro. Beh, insomma, Poi la provincia di Trento non è gigantesca, per cui pensate se questa cosa fosse applicata un po' da tutte le parti. Come funziona questo car sharing per i vostri dipendenti? Guardi, è partito dalla constatazione che nel parco macchine complessivo provinciale vi erano almeno un 30% dei veicoli che facevano pochi chilometri, facevano meno di 10.000 chilometri all'anno, e in più c'era un uso molto intenso dei rimborsi chilometrici ai dipendenti che usano la propria macchina. Allora si è detto: centralizziamo tutto il sistema degli spostamenti di lavoro. Quindi oggi esiste un parco macchine che si è ridotto e si sta riducendo del 30%, quindi si dismettono tutti i veicoli con più anni, e chi usa questi veicoli per spostamenti di lavoro si prenota il giorno prima, sì. E c'è una centrale unica interna che coordina tutti gli spostamenti. Questo, tra l'altro, facilita anche un uso più razionale dei veicoli, perché chiaramente, come dire, bisogna pianificarlo per tempo, no? Sì. Quindi si riesce a incrociare anche spostamenti collettivi. Insomma, sta dando dei buoni risultati. Ma è stato complesso per voi mettere in piedi questo sistema? Adesso mi immagino, guardi, perché voi a Trento, insomma, ogni cosa che fate andate dritti, no? Cioè, senza le tortuosità, sì, per esempio napoletane, senza voler parlare male. No, insomma. Guardi, devo dire che c'è stata una buona risposta da parte del personale. Sì. Nel senso che un po' in tutti i servizi provinciali c'è stata una risposta di interesse, ecco, su questo. Certo, all'inizio rompere delle consuetudini è sempre un po' faticoso. Come dicevamo prima, la paura del cambiamento. Poi, insomma, uno non ha più l'auto di riferimento, ma certo, deve chiamare, prenotarla. Come funziona con il car sharing? Perché secondo lei, invece, visto che stava parlando un po' anche della mentalità che avete dovuto superare, no? Sì. Per fare, però, insomma, lì è un obbligo a questo punto, quindi credo che i dipendenti non abbiano alternative. Invece, no, per i singoli cittadini, perché ci sono notizie, insomma, anche di questa settimana, sulle difficoltà del car sharing nelle grandi città, insomma, a Milano piuttosto che a Genova, non decolla per ora questo sistema di condivisione dell'auto. Perché, secondo lei? Ma guardi, io vedo che qua da noi c'è anche una cooperativa che gestisce un servizio di car sharing rivolto ai privati, e piano piano sta crescendo, ma mi pare con particolare riferimento non tanto ai privati cittadini quanto a un uso aziendale. Quindi ci sono soggetti collettivi che fanno riferimento a questa cooperativa. Io credo, guardi, che sia ancora molto radicata da noi l'idea che, come dire, l'uso della macchina privo di qualsiasi pianificazione, privo di qualsiasi criterio di utilizzo. Il car sharing implica appunto il fatto di pianificarsi. Cioè, secondo lei, da noi ecco, si fa sempre un po' fatica. L'uso dell'auto come l'abbiamo conosciuto sin qua, secondo lei, è il passato, è una cosa preistorica. Adesso bisogna usarla in maniera più razionale, quindi. Ma credo bene. Guardi, da noi c'è sempre stata l'idea che l'auto fosse qualcosa che, come dire, che non conta, di cui non si può tenere conto, è una risorsa sempre disponibile e a costo zero, almeno dal punto di vista degli impatti generali. Oggi non è più così, e così, guardi, la stessa cosa è quello che sta accadendo nel campo, per esempio, dell'edilizia, dove si presta molta più attenzione a cosa che una volta non si prestava attenzione. Per esempio sulla qualità dell'abitare, sulla salubrità, sull'utilizzo di materiali riciclati, sul risparmio energetico, tutte cose a cui per tanto tempo non ci si faceva caso, perché magari si avevano comportamenti virtuosi. E voi siete degli apripista invece in tutto questo. Insomma, ci si prova. Io so già cosa pensano gli ascoltatori, diranno: beh sì, la provincia di Trento sono bravi con i soldi della provincia autonoma. Guardate che qua stiamo parlando del contrario, cioè del risparmio. Esatto. E quindi questa volta questo argomento non c'entra nulla. Grazie Alberto Packer, presidente della provincia di Trento, per essere stato con noi. Questa era la storia del car sharing in provincia, che fa risparmiare dei bei soldini. 800 24 00 24, abbiamo il primo ascoltatore che ci chiama da Napoli. Edoardo, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Che ci dice? Io volevo dirle, a proposito di questo provvedimento di ZTL, innanzitutto lei sa che Napoli è una città molto particolare, per cui io avrei legittimato questo provvedimento preventivamente con un referendum cittadino, perché noi che la viviamo quotidianamente, sì, non abbiamo ben capito poi chi lo ha voluto. Vabbè, chi lo ha voluto l'ha voluto la giunta, questo è evidente, cioè c'è uno che sta lì a decidere, no? Il sindaco, poi si prende le sue responsabilità. Mi pare che De Magistris sia abbastanza criticato. Diciamo, sarebbe stato il caso di ascoltare preventivamente. Cioè lei dice che una cosa del genere ha talmente un impatto che andava prima fatto un referendum. Lei personalmente è favorevole o no a come è stato fatto? Guardi, io sarei favorevole, però sa cosa c'è? Sì. Dico sinceramente, non ci sono i parcheggi e non ci sono i mezzi per raggiungerle, per cui noi cittadini non fruiamo di questa ZTL, perché alla fine, a parte i grandi eventi, ne abbiamo tutte le diciamo gli svantaggi, perché chiudendo un'arteria così importante o una serie di arterie così importanti, automaticamente il traffico si ripercuote sulle altre zone. Però non ne abbiamo nessun vantaggio, perché avrei prima dato spazio a parcheggi e mezzi di trasporto per usufruirne. Poi pensavo che poteva essere un provvedimento saltuario, diciamo, legarlo ai momenti delle grandi manifestazioni, tipo adesso abbiamo questa cosa importantissima. Sì, vabbè, ma questa grazie comunque Edoardo, il fatto di essere saltuario, questo sarebbe un modo per evadere il problema. Io credo che uno o lo fa o non lo fa. Dopodiché le domeniche a piedi, queste cose hanno un valore simbolico, però se uno decide di percorrere la strada, di pedonalizzare alcune strade della città, è perché c'è un significato, un progetto, se no o si fa o non si fa. Comunque mi sembra che Edoardo abbia già dato un'indicazione, insomma, pochi parcheggi, poca accessibilità di quest'area, insomma ci sono già delle altre telefonate da Napoli, ma poi un po' le cronache le abbiamo sentite, i temi sono questi qua. Adesso continuiamo a parlare di sostenibilità, perché ci vuole orecchio per le notizie sostenibili. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Allora, avete capito, abbiamo ritrovato e ritroviamo la nostra Camilla Masala. Ciao Camilla, buongiorno. Ciao, buongiorno, buon sole a tutti. Dai, davvero, questa è la migliore notizia, buona notizia della settimana. Questa è la buona, possiamo chiudere qui. Tu dove sei, a Novara? Sì, a Novara, un bellissimo sole. Qui ci confermi, a Milano pure, insomma, altrove c'era già bel tempo, quindi non c'era bisogno di aspettarlo, perché al sud era già così da un po'. La nostra Camilla, a caccia di notizie insostenibili, insomma, la nostra amica fondatrice di una lavanderia per pannolini di stoffa, e quindi noi ricordiamo e rinnoviamo sempre questo appello a inquinare meno con la plastica, è una roba terribile. Camilla, l'ultima volta ci eravamo sentiti, stavi per organizzarti a Milano? Sì, ci siamo sentiti in occasione di fare la cosa giusta e stavo appunto lanciando il servizio a Milano. Come sta andando? Allora, sto raccogliendo le prime adesioni, speriamo che di partire il prima possibile. Ma come fai? Cioè, gestisci, cioè ti fai in su in giù da Novara a Milano? No, ho un'amica che gestisce uno spazio gioco per bambino, e per bambini ho uno spazio proprio di lavanderia a parte di lei. Poi chi fosse interessato sa che il sito è pupulito.com, non è naturalmente l'unica iniziativa in questo campo, però noi abbiamo conosciuto Camilla e da allora siamo diventati così, in sintonia. Che notizia hai scovato questa settimana? Allora, ho scovato un po' di notizie che prevedono una partecipazione attiva dei nostri ascoltatori. Sveglia tutti, non state lì pigri. È primavera. Allora, la prima riguarda gli ascoltatori di Roma, perché segnatevi stasera alle 10 al Testaccio, alla Città dell'Alta Economia, c'è il Riscarti Fest. È un Riscarti Fest. È un concerto promosso da un'associazione, da un progetto che si chiama L'Ambiente Si Nota. È un progetto che prevede il coinvolgimento di artisti e musicisti che utilizzano strumenti costruiti con materiali di riciclo. Ah, che bello! Sì, interessantissimo, un po' è arrivata secondo me dagli stomp. Secchi, pentole, non lo so, insomma, pezzi di legno, che poi è quello che si fa con i bambini, no? Io ho una bimba di 20 mesi e la fai suonare, la fai giocare con tin tin tin con gli oggetti di plastica. Per il tuo piacere. Per il mio piacere, no, per il suo, ma anche per il mio, è divertente. Però ecco, adesso bisognerebbe dirgli, non lo so, perché sento che va molto di moda nella musica i DJ, no? Tutti fanno queste adunate, bisognerebbe avvertire questi gruppi che suonano con la cosa riciclata, che bisogna coinvolgere i DJ, perché sennò i giovani Non si inter- glielo dici tu, Camilla? Te lo dico io, va bene, ci prendo nota. Va bene, allora, questo appuntamento a Roma, poi? A Roma, poi. Secondo appuntamento, la Ecor, che è un marchio di prodotti biologici, ha lanciato il 4 aprile un concorso che si chiama Coltiva i Biopensieri. Se andate sul loro sito, ecor.it, vi potete iscrivere. Uh-huh. Come funziona? Allora, si possono condividere foto e immagini, testi che testimoniano un'azione quotidiana sostenibile che avete fatto. Poi ci sarà una votazione coinvolgendo sia una giuria di esperti di Eco sia comunque gli altri partecipanti all'iniziativa. Il 20 giugno si proclamerà la l'azione più sostenibile, più piaciuta, più apprezzata. Ci saranno due premi, uno è una bicicletta elettrica e uno è un voucher di 300 euro spendibile in una catena di hotel sostenibili. Ma chi controlla che queste azioni sostenibili sono state fatte? Perché ci vuole qualcuno che controlli, sennò io chiamo, allora, dico, e dico ho piantato 48 alberi e con la bicicletta. Infatti io secondo me sta un po' anche nel modo in cui ci vuole fiducia, si propone la ci vuole fiducia senza dubbio, però c'è anche Ecor che da parte sua promuove comunque il rispetto e il controllo di quelle che sono le azioni che effettivamente sono state fatte. Vabbè, insomma, dai, c'è ancora tempo per partecipare? Sì, fino al 20 giugno. Ah, ok, quindi insomma avete capito, se volete testimoniare le vostre buone azioni nel campo della sostenibilità avete un motivo in più per farlo, perché potete vincere anche questi premi. Camilla, fra un po' all'ora di pranzo noi ti lasciamo, c'è qualcos'altro che hai trovato? Velocissimo, per gli amici piemontesi nella zona, sì, di Torino, c'è un progetto che si chiama FADA, che è Fedeltà Amica dell'Ambiente. In realtà, sì, è un circuito di attività commerciali che premiano azioni comunque sostenibili, ad esempio il recupero delle bottiglie in plastica, uh-huh, assegnando dei punti spendibili poi in altri esercizi commerciali. Anche qua si vince qualcosa, degli sconti? Si vincono in questo caso. Carrefour in zona Torino offre degli sconti per chi presenta appunto dei punti guadagnati con azioni sostenibili. Questo può essere interessante. Il progetto nello specifico si chiama Mr. Pet ed è un progetto che è attivo da 3 anni proprio nella provincia di Torino. Insomma, anche questa è una buona notizia, perché si vincono dei piccoli sconti anche qua con gesti più che simbolici, perché insomma, se uno va e porta che cosa? Plastica? Bottiglie di plastica? Allora, plastica, e si sta sperimentando anche una a fronte di una raccolta corretta dei rifiuti, l'assegnazione di voucher, comunque di punti da spendere. Guarda, tra l'altro la settimana scorsa ne avevamo parlato con il nostro amico Omar Pivi di Fare Raccolta, che fa un po' queste cose, infatti. Quindi è bello, dai, tutto questo si sta allargando. Camilla, insomma, è arrivata la primavera, tu sei contenta? Io sono contenta perché c'è il sole. Il lavoro in lavanderia va bene, no? Va bene, anche perché posso stendere i pannolini al sole, quindi ci si mette un po' meno. Va bene, grazie, allora buon weekend anche a te. Hers for the choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. Nell'Italia del 2013, come funziona l'educazione sessuale dei nostri ragazzi e ragazze? Siamo tornati, vogliamo tornare con urgenza su questo argomento, perché una notizia di cronaca da Salerno di qualche giorno fa è questa: lezione shock di sesso, il docente sospeso alla scuola media di Ponte Cagnano. Ora, cerchiamo di capire che cosa è successo, non è facile, però sembra che riemergano vecchi bigottismi, vecchie ipocrisie, non argomenti tabù, diciamo. È possibile che ancora oggi un docente può essere sospeso perché ha parlato di sesso in classe, quando il sesso si può vedere da tutte le parti, in tutti i modi super espliciti che insomma internet mette a disposizione, tra l'altro? E allora non potevamo non chiedere un parere a Nina Palmieri. Buongiorno Nina. Buongiorno, ciao. Conduttrice di Sex Education Show su Fox Life e su Cielo TV. Eccola. Sono allora, io. Sei tu, in tutto il tuo splendore. Non so se hai letto questa notizia e che idea ti sei fatta, perché sì, poi sai, ci può sempre essere qualcuno che esagera, si è parlato di toni volgari usati da questo insegnante, insomma. Ma sì, Ho letto, devo dire che io credo che le intenzioni del professore punito con la sospensione fossero delle buone intenzioni. Ora, non so se abbia usato delle parole o degli esempi considerati scioccanti per questi ragazzi di scuola media, ma ci sarebbe un po' da chiedersi cos'è ormai troppo forte, insomma, o scioccante. Brava, certo, perché se possono essere scioccanti le parole, figuriamoci le immagini esplicite che circolano, insomma. Esatto, no, io posso parlare con la mia esperienza e avendo messo i panni così della professoressa per Sex Education Show con l'aiuto di medici e specialisti vari, sì, e avendo dedicato delle lezioni di educazione sessuale ad un gruppo di liceali che avevano tra i 14 e i 18 anni, loro si sentono tutti degli stalloni infaticabili con l'ormone a mille, si così freddi, no? In realtà a me quello che ha stupito è che in realtà questi ragazzi sono tanto abituati al sesso, come dicevi tu, per l'accesso facilitato, super facilitato, sì, ad internet, quanto poi ignoranti e disinformati o comunque informati in modo erroneo e contraddittorio sulla realtà vera e quella concreta. Poi in realtà appena tu gli dai delle informazioni corrette, sì, sulla contraccezione, sulle malattie sessualmente trasmissibili, in generale sulla sessualità, sono attentissimi, sono interessati, e generosi di raccogliere queste informazioni, per cui credo, mi pare che insomma, un tema può essere anche quello della volgarità, perché pare che questo professore abbia usato espressioni volgari, no? Facciamo un esempio, cioè se io dico, come fai tu, parli dell'organo sessuale maschile, no? È un termine neutro e va bene, uno può parlare finché vuole. Se io dico noto intercalare, che si usa, però usato in quella, cazzo, è volgare, no? Cioè, è volgare, però perché... è d'uso comune tra i ragazzi, cioè è chiaro che è d'uso comune come sentire... intercalare, ma se io lo uso in una lezione in cui parlo di sesso è come se, perché la volgarità è sbagliata secondo tu, non la usi, perché è sbagliata usarla secondo te? Ma perché bisogna chiamare le cose con il nome scientifico se uno fa una lezione, no? Per cui non si dice, la ripeto, cazzo, si dice bene, cioè si dice, si chiama come si chiama, insomma, come la chiamano i medici, per questo io con me, perché sennò si dà subito una caricatura di altri significati e quindi si va, esatto, si va fuori dal problema. Invece se si chiamano le cose col loro nome si resta attaccati alle cose e quindi non c'è volgarità ma c'è informazione vera, insomma, di cui i ragazzi, ci confermi, hanno bisogno. Ti confermo che hanno un desiderio fortissimo poi di avere una corrispondenza tra quello che riescono a vedere facilmente su internet, perché il 40% degli adolescenti italiani ha acquisito o acquisisce tutte le informazioni in materia di sesso solo da internet. Quanti, scusami? Il 40%. Non sono dati miei, insomma, sono dati ufficiali, sì, per cui un adolescente su quattro fa sexting, ovvero scambia immagini hard, pornografiche via WhatsApp, Snapchat, Messenger, social network vari, no? Poi a me mi fa molto ridere il nostro paese, perché è veramente il paese delle contraddizioni ipocrite anche, perché ad esempio la giunta di Milano, credo neanche un mese fa o forse un mese e mezzo fa, aveva proposto l'inserimento di distributori profilattici a pagamento nelle scuole, sì, e c'è stata una vera e propria rivolta di genitori, professori e presidi, come se questo fosse un crimine, invece che una proposta illuminata, no? Che farebbe del bene a questi ragazzi e al loro futuro. Cioè noi siamo il terzo mondo quanto ad educazione sessuale nelle scuole, e questa è questo evento ad esempio nella dimostrazione. Cioè c'è poco di esplicito, c'è poco di trasmesso chiaramente in sedi istituzionali con informazione seria, e c'è molto invece di sottaciuto, di ipocrisia, anzi c'è tutto direi. C'è pochissimo di trasmesso dalla scuola, nel senso che in Francia l'educazione sessuale è materia scolastica dal 73 con 40 ore all'anno più distribuzione gratuita di profilattici nelle scuole. Da noi, capito, c'è la rivolta dei genitori e dei presidi e dei professori. Ecco, appunto, come ti spieghi anche questa cosa qua delle rivolte degli insegni, dei genitori, che dovrebbero pensarla come la pensi tu, cioè meglio che qualcuno gliene parli esplicitamente in maniera corretta piuttosto che apprenderlo in altri modi? E invece... Ma io non sono genitore, quindi quello che posso dirti ovviamente è facile per me osservare dal di fuori, e quello che dico è che i genitori pensano sempre che i loro ragazzi siano dei bambini, che non fanno sesso, quando invece ovviamente non solo, probabilmente lo fanno anche più dei genitori, no? Ma poi appunto riescono ad avere una preparazione teorica, diciamo così, attraverso quello a cui riescono ad arrivare, sì, quindi anche è facilissimo dire sono maggiorenne ed entrare su un sito magari 12 anni. Cari, no? Genitori, cercate di aprire davvero gli occhi sui vostri figli, non fate finta di nulla, e noi il nostro insegnante di Ponte Cagnano lo assolviamo, al netto di non sapere esattamente come è andato. Se ne fossero di insegnanti come lui, magari intanto, insomma, ecco, bisognerebbe solo dire di non usare delle parole volgari. Ecco, questo abbiamo chiarito e mi sembra giusto. Intanto continuate a seguire le lezioni di Nina Palmieri, Sex Education Show, in onda vari orari su Fox Life e cielo, anche su altri. Su cielo, in questo momento. Su cielo. Ah, benissimo. Sì. Grazie Nina per essere stata grazie, con noi. Grazie a voi. Ciao, ciao, buona lavoro, primavera buona anche giornata. A te, visto che grazie. È scoppiata oggi, è fantastico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo Raffaele che ci chiama da Napoli al numero verde. Ricordo agli ascoltatori che non sono riusciti ad andare in diretta che se vogliono possono chiamare la nostra segreteria telefonica 828 12 12 per lasciare un messaggio, la ricetta per salvare l'Italia. Stiamo parlando oggi di zona pedonale ma anche di altro. Raffaele da Napoli, per cosa ci chiamava? Buongiorno, io chiamo perché mi reco per lavoro ogni giorno proprio al centro di questa famosa ZTL, quindi sono personalmente coinvolto. Della famigerata zona pedonale, contestatissima. Esatto, la zona pedonale del mare, la ZTL del mare, e quindi volevo dare un punto di vista su quello che un punto di vista locale su quello che sta succedendo, su quello che, mi dispiace usare una parola inglese, sul sentiment dei napoletani su questa ZTL, perché ci sono dentro ogni giorno. Perché quello che sembra, leggendo i media, ascoltando i media, è che siano tutti contro questa ZTL. Il che invece io, ed è questo quello che voglio dire, non è vero. Perché per esempio tutte le manifestazioni che ci sono state in questi giorni, si sono detti anche alcuni numeri, 1000 persone, 1500 persone, sì. Stiamo parlando di Napoli, una città che se prendi la grande Napoli, Napoli è un po' la provincia, fa 3 milioni di persone. Quindi certo, parlando... ma Raffaele, il tentativo di chi fa le manifestazioni e spacca tutto è proprio quello di far passare un solo messaggio, no? È quello che sono riusciti in questo caso a fare quelli che hanno fatto la manifestazione, forse con degli infiltrati. Io ho capito che c'era qualcosa anche di polo, però questo è il loro tentativo. Tu dici attenzione, siamo 3 milioni, questi erano 1000. E qual è il sentiment invece tuo personale? Il mio sentiment è un altro, che sono assolutamente pro ZTL, perché basta passeggiare ogni giorno. Io ho rispolverato una bicicletta vecchia di 20 anni per andare al lavoro, sono contentissimo perché un tratto che facevo col muso per andare al lavoro adesso lo faccio col sorriso. Ma a parte questo sentiment personale, voglio dire, molte volte si punta il dito contro, l'ho sentito anche prima nella trasmissione, contro i mezzi pubblici. Si dice, ma come si fa a fare una ZTL se non ci sono i mezzi pubblici? Io voglio dire che i mezzi pubblici non devono essere il presupposto della ZTL, non si può fare il mezzo pubblico perfetto e vabbè, la devono accompagnare ZTL. Però insomma Raffaele, certo, no, non è che possono arrivare. No, secondo me è addirittura la conseguenza, nel senso che se sì. Io inondo le strade di macchine non posso, poi i mezzi pubblici non possono circolare. Va bene, bravo. Questo è un po' l'uovo e la gallina, ma è chiaro il tuo punto di vista. Grazie per averci chiamato 800 24 00 24, però per oggi era l'ultima telefonata. Adesso, visto che è quasi l'ora di pranzo, andiamo a Parma per i campionati, niente proprio di meno che del mondo di pizza. C'è chi ci piace la paia rotta, ma va. C'è chi ci piace la nucleia, bontà. C'è chi ci piace la brusa e cattato con l'osso pressata come dolce la cassata. Ce la fa. C'è chi ci piace la polenta o il baccalà, spaghetti, cozze, gamberetti, ecco qua. Parmigiana, gnocchi, pasta con le cine, birra e tortellini a ragù. Ma c'è una cosa che a noi piace, che ci piace di più. Noi siamo pazzi per la pizza, pazzi per la pizza. Beh, questa chicca, pazzi per la pizza, di Scanzio e Picchio, credo sconosciuta ai più. Però insomma era un giusto modo per introdurre questo argomento un po' pazzesco, ma forse non del tutto. Patrizio Carrera, l'abbiamo convocato, uno degli organizzatori di questo campionato mondiale della pizza, che è una cosa anche abbastanza seria. Patrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché è una cosa vera, cioè coinvolgete qua quanta gente a Parma da lunedì a mercoledì, quanti pizzaioli? Più di 500 pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Ma vincerà un italiano però, è ovvio, o no? Non è così scontato in realtà, perché abbiamo più di 10 gare di 10 specialità diverse, per cui non è detto che vinca per forza di cose un italiano. L'anno scorso però ha vinto un italiano, mi pare un trentino, no? Un vento. No, era un vicentino. Un vicentino. In realtà. Sì, un pizzaiolo vicentino che ha vinto per la prima volta il campionato mondiale della pizza. Quindi sfatato quantomeno il luogo comune del pizzaiolo napoletano. Ma in tempi di crisi, no? Ci potete portare una buona notizia? La pizza funziona, le pizzerie non chiudono? O sì? Ma guarda, secondo i dati forniti dalla FIPE, quindi sì. La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, E quest'anno c'è bisogno di circa 6.000 pizzaioli qualificati. E la cosa più strana è che si fa fatica a trovarli proprio in Italia, che è il paese della pizza. Guarda, noi fra l'altro devo dire, mi fa piacere essere allineati senza volerlo, perché abbiamo dato notizia più volte di corsi di formazione, pizzaioli che si spendono a loro volta per formare altri pizzaioli, perché evidentemente c'è bisogno, no, di questo mestiere. Ora, un ragazzo magari che studia all'università può immaginarsi un futuro diverso da quello del pizzaiolo, però perché invece per un periodo, no, uno nella vita non può fare anche questo, piuttosto che stare a casa con le mani in mano? Non ci sarebbe niente, no, di male. Invece, Assolutamente. Con il modernismo ci siamo portati dietro anche questa brutta cosa di snobbare certi mestieri faticosi. Guadagna bene un pizzaiolo, però? Allora, guadagna bene se è bravo, come sempre, come qualsiasi tipo di lavoro, per cui sostanzialmente un pizzaiolo con esperienza può portare a casa un bello stipendio, sicuramente. Tipo? Allora, guarda, in Italia comunque non c'è, diciamo così, riconoscimento contrattuale della figura del pizzaiolo a tutti gli effetti, sì. Però sostanzialmente uno stipendio, insomma, onorevole di 1.300-1.400 euro senza problemi. Magari gli orari saranno un po' impegnativi, perché si lavora tutto il giorno. Sì, gli orari per lo più sono serali, insomma. Gli orari tipici dei ristoranti, insomma, con impegni lunghi. Esatto, però questo... il 75% delle pizzerie in Italia comunque lavora sempre sul serale, anche se, sì, e anche questo è sempre un dato fornito dalla FIPE, c'è da dire che l'8% dei consumatori di pizza la consuma a colazione. Sembrerà una cosa strana, ma la pizza a colazione piace. Ma sì, siamo pazzi, no, ragazzi, questa bisogna sconvincere questo 8%, che è una cosa che non si fa. Allora, forse sono gli avanzi della sera prima? No, dai, speriamo di no, insomma. Comunque, cioè, vanno al bar e ordinano la pizzetta, forse è questa. Esatto. Vabbè. Abbiamo un minutino, però parliamo di come funziona questo campionato del mondo della pizza che si svolgerà nei palazzi della Fiera di Parma. Qual è il regolamento? Allora, sostanzialmente la manifestazione, come ti dicevo, comprende 10 gare, quindi 10 specialità. Due giornate di lunedì e martedì saranno dedicate alle gare di cottura, mentre invece la giornata di mercoledì sarà incentrata sulle gare di abilità, quindi il pizzaiolo più veloce, la pizza più larga e la freestyle individuale, che sostanzialmente è il pizzaiolo che gioca con le pizze, quello che un classico si immagina nel ristorante. Sì, quello che fa girare così come se fosse un disco. Esattamente, esattamente. Mercoledì ci saranno le premiazioni finali, quindi il gran gala della pizza con testimonial d'eccezione, sostanzialmente una grande festa. Chi è della il testimonial pizza d'eccezione? Quest'anno sarà Emanuele Filiberto. E che c'entra con la pizza? Guarda, è una lunga storia. Vabbè, non abbiamo tempo per la lunga storia perché abbiamo 20 secondi. Ci sono gli egiziani che incombono, però, questo sì. Assolutamente sì, egiziani. Viva gli egiziani, ci fermiamo qua. Grazie Patrizio Carrer, dobbiamo chiudere il campionato del mondo della pizza a Parma. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, oggi in diretta Franco Piantanida, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Carmelo Lauricello è in regia, siamo tutti, io sono su Twitter @ Ale Maurizi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, buona giornata a tutti. Si può fare cronache da un paese migliore.